Compagni di viaggio. Compagni di viaggio. A Gerusalemme con Ugo Morelli. When I walk beside her, I am the better man. When I look to leave her, I always stagger back again. Non è semplice stabilire le ragioni per cui si arriva a scrivere un libro. In questo caso, scrivendo Mente e Paesaggio, una teoria della vivibilità, mano a mano che emergeva dalla mia ricerca il contenuto del libro, mi sono reso conto che non stavo parlando solo del paesaggio esterno o dei paesaggi che, come si potrebbe dire, ci stanno intorno, ma parlavo anche del mio paesaggio interiore. E parlando del mio paesaggio interiore mi accorgevo che i confini fra il paesaggio interno e il paesaggio esterno sfumavano, trovandomi ancora una volta di fronte alla prova che la distinzione che noi stabiliamo tra mondo interno e mondo esterno è in fondo una convenzione. Dovendo poi esemplificare l'idea di paesaggio inteso come connessione tra mondo interno e mondo esterno, come diceva Ernesto De Martino, ognuno di noi ha un paesaggio nel cuore e solo chi ha un paesaggio nel cuore ha il senso dell'infinito e del mondo. Dovendo esemplificare, dicevo, ho pensato che si potesse scegliere una città come ideal tipo del paesaggio, o meglio, come ideal tipo del paesaggio per me, perché il paesaggio è sempre un paesaggio dal punto di vista di qualcuno. Ebbene, per la mia storia e per le mie predilezioni, diciamo così, dell'anima, la scelta è caduta su Gerusalemme. Nome Gerusalemme, stato Israele, confini. È situata sull'estremità meridionale di un altopiano dei Monti di Giudea, che include il Monte degli Olivi a est e il Monte Scopus a nord-est. L'altitudine della città antica è circa 760 metri sul livello del mare. La moderna è percorsa da continui saliscendi. Dista 60 km a est da Tel Aviv e dal Mar Mediterraneo e 35 km a ovest dal Mar Morto. Abitanti 724.000. Clima. Gerusalemme gode di un clima mediterraneo con estati calde e secche e inverni freschi e umidi. Fuso orario, 2 ore avanti rispetto al meridiano di Greenwich, 1 ora rispetto all'Italia. Documenti. Per entrare in Israele, il viaggiatore italiano deve essere in possesso del passaporto valido per 6 mesi dalla data di entrata. Il visto è necessario solo per soggiorni superiori ai 90 giorni. I turisti che sono interessati a soggiornare in Israele nel corso di un viaggio per altra destinazione possono richiedere un visto di transito per 5 giorni, che può essere prorogato di altri 10 giorni al loro arrivo in Israele. Vaccinazioni. Non è richiesta alcuna vaccinazione. Consigliabili sono le vaccinazioni antitifica, quella contro l'epatite A e quella contro l'epatite B per chi soggiorna a lungo. Moneta. Nuovo shekel israeliano. Tenete sempre una piccola scorta di dollari o euro in banconote di piccolo taglio. Spesso una transazione in dollari o euro può essere più vantaggiosa di una in shekel. Sono all'Università di Bergamo e in uno studio ricavato dalle celle dei monaci di un antico convento c'è Ugo Morelli. Gerusalemme è dentro di lui anche per via delle sue origini, ma dall'introduzione che mi ha fatto di questa città, ideal tipo di paesaggio, come ha detto lui, ho l'impressione che sia dentro ognuno di noi. Non è tanto una scelta, per certi aspetti. Si dice scelta, un'alternativa fra più possibilità. Ci sono aspetti della vita in cui le possibilità si semplificano fino a ridursi ad una. In questo caso Gerusalemme per me è un riferimento, come dire, necessario e indispensabile per ragioni storiche, per ragioni affettive. Perché? Perché Gerusalemme è molto più di una città, è molto più di uno stato d'animo. E come tale è molto difficile da affrontare, nel senso che ho dovuto immaginare di scegliere alcuni punti di vista, o usando una metafora che per Gerusalemme si attaglia particolarmente, alcune porte d'ingresso. Come è noto, il concetto di porta a Gerusalemme è un concetto particolarmente importante, ancora oggi è possibile vedere nelle mura di Solimano il Magnifico alcune delle espressioni più belle di un'architettura che si identifica con le porte, dalla porta di Giaffa, quella dei leoni, di cui magari parleremo un momento più avanti. People always tell me, sweet and simple life to be the same. Per farmi fare questo giro, il mio accompagnatore ha deciso di scegliere una metafora particolarmente calzante per questa città, ovvero mi condurrà alla sua scoperta attraverso delle porte di ingresso. Ma perché Gerusalemme è l'ideal tipo di paesaggio? Perché diventa rilevante parlare di Gerusalemme dovendo parlare di paesaggio? Ma perché abbiamo lì, in quella circostanza storica, irriducibile a qualunque forma di narrazione monolitica, allo stesso tempo la prova che ogni paesaggio è un paesaggio interiore, o, come cerco di dire nel libro, ogni landscape è contemporaneamente un mindscape. Cioè, abbiamo la prova che la distinzione fra paesaggio naturale, come si usa dire, e paesaggio artificiale, cioè un paesaggio fatto ad arte, costruito dallo sguardo e dalla mente degli esseri umani, è una distinzione tutto sommato convenzionale. Perché? Perché un paesaggio possa esistere, è necessario che ci sia un essere umano che lo guarda. Come diceva un grande filosofo del 1900, che è stato Ludwig Wittgenstein, che cos'è un albero che cade in una foresta senza un essere umano che lo veda cadere e narri il fatto di averlo visto cadere? Mi viene in mente una frase del suo libro Mente e paesaggio, una teoria della vivibilità, che appena letta mi aveva provocato un certo brivido. Il paesaggio è dentro di noi prima di essere intorno a noi. Realizziamo nel mondo in cui viviamo il paesaggio che abbiamo in mente. E ora sono curiosa di approfondire come Gerusalemme possa essere metaforicamente una connessione tra il paesaggio dentro e fuori di noi. E allora, da questo punto di vista, mi sono chiesto quali sono le porte per entrare in un paesaggio usato in questo caso come metafora, cioè Gerusalemme. Un luogo che sia la prova della connessione fra landscape e mindscape. Perché? Perché appunto, come sto cercando di dire, il paesaggio esiste al punto di connessione tra mondo interno e mondo esterno con la mediazione del principio del movimento. E quindi rispetto a Gerusalemme sono emerse alcune porte. Una è la porta storica, è inevitabile che sia così. Nel senso che la storia di questa città si perde nella notte dei tempi, è indefinibile la sua origine con precisione, e cominciamo ad avere delle informazioni di una certa precisione, sempre con ovviamente i limiti delle fonti storiche, a partire dal 1370 a.C. circa, momento in cui troviamo le prime definizioni di questa città, appunto, e del suo nome, Uru Salem o Uru Shalim. Ecco, dove i richiami sono naturalmente al Salem arabo, allo Shalom ebraico, e l'etimo pare risalga al concetto di fondazione del Dio di pace. Quindi l'idea fondamentale e origini perfino dal punto di vista toponomastico di questa città sono idee che fin dall'inizio sembrano disegnare quello che poi sarebbe stato il suo destino. Un luogo crocevia di tutto, si può dire, e allo stesso tempo di meraviglie e distruzioni. Come sempre nella storia umana, queste due cose sembrano particolarmente sodali. Compagni di viaggio. Compagni di viaggio. A Gerusalemme con Ugo Morelli. When I walk beside her, I am the better man. When I look to leave her, I always stagger by. Sono a Gerusalemme con Ugo Morelli. Ha deciso di farmela scoprire portandomi metaforicamente attraverso delle porte d'ingresso. La prima porta che ha scelto è quella storica. Dal 1370 avanti Cristo, data in cui abbiamo le prime definizioni di questa città, siamo passati al racconto della conquista di David intorno all'anno 1000 avanti Cristo, che deposita qui l'arca dell'alleanza e nonostante questo decide di non edificare, di non segnare il territorio. Lo stesso non riesce al figlio Salomone, che nel 950 avanti Cristo costruisce invece il tempio e con esso il vincolo dell'appartenenza. Salomone edifica il Tempio e l'edificazione del Tempio fa di Gerusalemme un luogo che da quel momento diventa un riferimento fondamentale per almeno 500 anni, nel senso che diventa una fucina straordinaria di richiami della tradizione ebraica, di consolidamento della presenza ebraica e quindi di elaborazione di una straordinaria fonte culturale. Questi 500 anni si concludono, per andare avanti in questa descrizione storica o della dimensione storica del paesaggio, come potremmo dire, nel 587 avanti Cristo circa, le datazioni ovviamente sono sempre dubbiose, con la distruzione del Tempio da parte dei babilonesi, e comincia una vicenda di costruzione e distruzione che poi si replicherà più volte fino, come vedremo, al 70 dopo Cristo, con la distruzione del Tempio ricostruito da parte dei Romani, in particolare dell'imperatore Tito. Costruzione e distruzione del Tempio, ridisegnare e ridefinire il proprio spazio e il proprio pensiero in relazione a quello spazio. Ecco che mi si presenta agli occhi un'altra frase del libro di Morelli. Se c'è una cosa che non sopportiamo è l'ignoto, eppure ogni cambiamento richiede di misurarsi con l'ignoto. Quanto ignoto ha vissuto Gerusalemme nella sua prima porta d'ingresso, che è quella storica? Ecco, questa dimensione storica del paesaggio di Gerusalemme è tuttora visibile, e quindi visitare oggi Gerusalemme significa percorrere la strada tra Tel Aviv e Gerusalemme. Non dobbiamo mai dimenticare che stiamo parlando di uno Stato che nella sua massima espressione di larghezza non supera i 100 chilometri, e quindi la strada è la strada dei pionieri, che tuttora ha delle meraviglie legate alla capacità che il popolo israeliano ha avuto di trasformare il deserto in un giardino, e quindi il paesaggio da questo punto di vista è assolutamente ammirevole, denso di colture, di colori, di ordine, di precisione e anche di estetica molto singolare, perché Gerusalemme è un luogo dove in ogni centimetro quadrato, a livello orizzontale e verticale, c'è una stratigrafia di storia, una stratigrafia di informazioni che è difficile penetrare completamente. Bisogna accontentarsi, anzi in questo c'è una certa gioia, insomma, della malinconia del limite, cioè di scoprire che non si saprà mai tutto, e quindi probabilmente da questo punto di vista è anche un luogo di apprendimento per noi esseri umani, che vorremmo sempre, come dire, conquistare gli spazi fino a ridurli ad una descrizione definitiva. Oh, Jerusalem, yeah. Oh, Jerusalem. Gerusalemme è la sua storia, che è poi la nostra storia. Una storia che si è stratificata in ogni pietra, in ogni luogo, in ogni abitante, e che non può che essere uno dei punti di vista attraverso cui guardarla, visitarla, conoscerla. Anche se, come dice il mio cicerone Ugo Morelli, non si potrà mai penetrare completamente, lasciandoci però il piacere di tuffarci nella malinconia del limite, come la chiama lui. Non è descrivibile completamente Gerusalemme, da questo punto di vista è una metafora della nostra esperienza umana. Forse però bisogna assumere un altro punto di vista ancora, oltre a questo sempre rimanendo nella porta storica, diciamo così, del paesaggio di Gerusalemme, un altro punto di vista ancora, che non è solo quello della tradizione ebraica, che per ovvi motivi io ho privilegiato in questo racconto fino ad ora, ed è il punto di vista arabo. Il punto di vista arabo, perché Gerusalemme è anche una città araba, a lungo è stata una città araba, come vedremo fra un momento, è molto ben rappresentato da un geografo dell'anno 1000. Naturalmente parliamo in questo caso dell'anno 1000 d.C., per l'esattezza del 985 d.C. Il geografo si chiama Mukaddasi, o Makdisi, come dir si voglia, e ascoltiamo che descrizione fa della città. È la dimora dei profeti, scrive Mukaddasi, il centro degli uomini pii, la patria dei santi immortali, il paese dove si trovano la prima Qibla, punto di orientamento della preghiera, il luogo della resurrezione e del viaggio notturno, la terra santa, infine. Preciso che Qibla, sospendiamo un attimo la lettura, cioè il punto di orientamento della preghiera, è una questione molto importante dal punto di vista arabo, sempre a proposito di paesaggio, perché nella primissima fase il profeta Maometto indicò Gerusalemme come la direzione di assumere in occasione della preghiera. Solo in un secondo momento sostituì questa indicazione con la Mecca. Ebbene, la terra verso cui emigrò Abramo, la dimora di Giobbe e il luogo del suo pozzo. Il Mihrab, nicchia che dà la direzione della Qibla, e la porta di David, i monumenti di Salomone, le tombe di Abramo, di Isacco e di sua madre, il luogo di nascita e la culla del Messia, la cisterna e la prigione di Geremia, la collina di Gesù, il Mihrab di Zaccaria, il luogo dove fu battezzato Giovanni, le cappelle dei profeti, le stazioni di Giacobbe, la moschea lontana, Al-Aqsa, il Monte degli Ulivi, la tomba di Mosè, quella di Rachele. Forse il paesaggio è questo, mi spiega Morelli, cioè il luogo dove noi traiamo gli elementi della nostra identità. Ebbene, esiste un'altra porta per Gerusalemme, ed è il clima. Il paesaggio è anche clima. E anche vivibilità da un punto di vista climatico. Poi parleremo fra un momento di un'altra vivibilità. Perché? Perché Gerusalemme ha un clima straordinario, dove straordinario significa che è un clima temperato, è attraversata nel pomeriggio verso sera da venticelli particolarmente gradevoli, che portano i profumi dei dintorni, e quindi per esempio i profumi degli olivi, ha manifestazioni di colori che combinano la bellezza delle pietre che la distinguono con il paesaggio intorno, e il clima è fatto anche non solo dagli aspetti, diciamo così, orografici, naturalistici e urbanistici, ma anche dalla complessità delle relazioni umane che dentro la città si esprimono. Perché il paesaggio di Gerusalemme è anche la straordinaria dimensione umana di un pluralismo possibile, prosegue Ugo Morelli, che probabilmente è l'unica effettiva chance che abbiamo noi oggi per abitare questo pianeta. Compagni di viaggio. Compagni di viaggio. A Gerusalemme con Ugo Morelli. When I walk beside her, I am the better man. When I look to leave her, I always stagger back again. Gerusalemme e la sua porta storica. Gerusalemme è la porta del clima, clima atmosferico, ma anche di relazioni umane, luogo di dialogo per eccellenza, dove si mescolano da millenni popolazioni e culture. Ugo Morelli ha scelto questa città come idealtipo del paesaggio. E più andiamo avanti nell'apertura delle sue diverse porte metaforiche, scelte da lui per farmela conoscere, comincio a pensare che davvero Gerusalemme sia dentro ognuno di noi. Ma non ci sono solo le metafore. Gerusalemme è anche, per esempio, dal punto di vista delle realtà che la caratterizzano, alcuni luoghi decisivi e fondamentali. La porta di Giaffa, la torre di David, la via dolorosa, il muro del pianto. Ma è anche un posto storico a cui io sono particolarmente legato, che è l'Hotel King David, da cui si ammira la città vecchia. Perché? Perché l'Hotel King David è stata la sede, per esempio, del primo parlamento israeliano, è stato luogo anche di tragici eventi, ed è un posto che merita certamente una visita, possibilmente di esserne ospiti almeno per una notte. Un luogo dove confluisce il mondo intero, certamente una straordinaria metafora del paese. Un luogo anche dove rendersi conto di che cos'è la tradizione e la cultura ebraica, senza enfasi. Mi racconta di un venerdì sera al King David, dove dei bambini si sono messi a commentare le mura della città, appoggiate alla balaustra della terrazza dell'hotel, parlando tre lingue diverse tra di loro. Un esempio del paesaggio umano di Gerusalemme. Ecco, Gerusalemme è anche questo, cioè anche il luogo dove sono depositate, e lo dico, ripeto, senza nessuna enfasi, le straordinarie capacità di un popolo che ha fatto affidamento a se stesso e alla propria memoria per continuare ad esistere e per cercare di esprimere se stesso nelle congerie di culture che popolano il pianeta. Cos'altro è Gerusalemme? Gerusalemme è anche la cucina. È la cucina armena, per esempio, perché, come è noto, la città vecchia è divisa in quattro aree. Una è quella cristiano-cattolica, che ospita appunto quello che viene definito il Santo Sepolcro. L'altra è la città araba, che mantiene un'identità straordinaria anche dal punto di vista urbanistico, perché la parte ebraica della città è stata fortemente ristrutturata dopo il 1967, cioè dopo che Gerusalemme venne conquistata nel 4-5 di giugno del 1967 dagli israeliani, dagli ebrei israeliani. Gerusalemme ha un quartiere armeno. Il quartiere armeno è un quartiere dove, camminando di sera, è difficile non entrare in uno dei ristoranti, perché gli armeni hanno una straordinaria competenza culinaria e quindi è assolutamente suggeribile di scegliersi uno dei ristoranti, uno qualsiasi, non si sbaglia, è difficile sbagliare, dell'area armena, dove è possibile mangiare delle cose particolarmente buone. Nell'area araba della città, rimanendo nella dimensione gastronomica e culinaria, paesaggio della città anche la straordinaria e ricchissima varietà di negozi, di souk, di luoghi in cui si commercia tutto quello che è commerciabile. E in particolare un suggerimento per capire il paesaggio della città è entrare in un negozio di spezie. In un negozio di spezie che mostra un altro paesaggio, quello della molteplicità dei colori delle spezie, che sono in questo caso quasi sempre tutte disposte in mucchi di forma conica, di diverse dimensioni. È fondamentale per capire il paesaggio nel paesaggio è comprare un po' di spezie e dedicarsi necessariamente, fondamentalmente, alla negoziazione sul prezzo con il venditore. Dalla storia, passando per il clima, siamo arrivati alla cucina, sintesi perfetta di tutte le culture che hanno abitato e abitano Gerusalemme. Una parte araba e una parte ebraica, per una città che è il punto d'unione metaforico tra paesaggio interiore e paesaggio esterno, come mi ha spiegato il mio accompagnatore. Certo è che, per capirla davvero questa città, noi ospiti viaggiatori non possiamo esimerci dalla negoziazione. È molto difficile capire Gerusalemme, capire la parte ebraica, la parte araba di Gerusalemme, senza negoziare con i tassisti, senza negoziare con i ristoratori, ma soprattutto senza negoziare con i commercianti di spezie, bevendo un numero illimitato di tazze di tè che sono parte della negoziazione, perché il problema è chi cede per prima. Ecco, questo è un consiglio, come dire, da viaggiatore, che ritengo vada messo in pratica per capire uno degli aspetti del paesaggio di Gerusalemme. Naturalmente c'è anche un'altra chiave per entrare nella città, ed è la chiave letteraria. Un grandissimo studioso di origine ebraica, Walter Benjamin, dice: io viaggio per conoscere la mia geografia. Ecco, tutti noi in fondo siamo questo e viaggiamo per questo. E quindi andare a Gerusalemme vuol dire viaggiare nel conflitto delle identità che questa città ha, sostiene Morelli. Basti pensare alla cartolina tipica, dove si vede la cupola d'oro della moschea di Omar, che è situata nella spianata dei templi, appena sopra il muro del pianto, tanto per dare l'idea della sua complessità. Quindi noi conosciamo in particolare la città vecchia, come si dice, quindi Gerusalemme Est, la città santa, come la vogliamo definire, come viene definita sia dai cristiani che dai musulmani, come Solimano il Magnifico la fece. Questo ci dà l'idea del conflitto, e ci avviamo all'ultimo punto di questa riflessione, del conflitto in corso. Un conflitto in corso che, se concepito come incontro di differenze, come ho tentato di dire in un libro scritto nel 2006 che si chiama Conflitto, appunto, uscito da Meltemi, ebbene, se si vuole intendere in questo senso, potrebbe essere una straordinaria opportunità. È molto difficile oggi, in certi passaggi della storia e del presente, vedere questa opportunità. Però questa opportunità è allo stesso tempo sotto gli occhi di tutti. Shalom, shalom, Jerusalem. Peace be to you. When Messiah comes to take us home, may his praise be found in you. Compagni di viaggio. Compagni di viaggio. A Gerusalemme con Ugo Morelli. When I walk beside her, I am a better man. When I look to leave her, I always stagger back again. Gerusalemme nelle parole di Ugo Morelli. Gerusalemme nella storia di ognuno di noi. Il viaggio di oggi somiglia tanto al viaggio delle nostre radici, quelle che ci hanno condotto ad essere come siamo. Siamo partiti dalla storia, inevitabile e fondante. Siamo passati per il clima e la cucina, per arrivare all'ultima finestra, o meglio, porta, dalla quale guardare questa città. Visitare Gerusalemme, cosa che vivamente suggerisco a tutti, significa anche rendersi conto di questo, cioè rendersi conto del fatto che quello che oggi è il vincolo principale, cioè la convivenza tra culture diverse, che trovano la propria origine, convivenza tra culture diverse che trova la propria origine nella tomba di Abramo, che è, come noto, il luogo fisico in cui è depositata la memoria delle tre grandi religioni monoteiste, questo non bisogna mai dimenticarlo, la grotta di Machpelah, che contiene, come dire, l'episteme di queste tre grandi religioni, mentre è stato ed è motivo di conflitto che spesso degenera in antagonismo e in distruttività, è anche però lo stesso luogo, e questo è un punto su cui noi dobbiamo puntare i piedi, secondo me, che può essere l'origine di un modo diverso di gestire il conflitto, cioè di un modo di intendere il conflitto come incontro tra differenze che sono reciprocamente arricchenti. In Mente e paesaggio, una teoria della vivibilità, l'opportunità della scoperta di un altrove personale, un modo anche per gestire il conflitto, è così descritta. L'idea di concepire il confine come inizio e non come una fine rappresenta in sintesi la sfida epocale che abbiamo di fronte. Il confine è dove ognuno di noi comincia. Il margine è dove comincia la mia possibilità, non dove qualcosa finisce. E dove comincia la mia possibilità è dove riconosco ciò che mi manca e ciò che io non sono. E ciò che io non sono, se ci pensiamo bene, è ciò che io posso diventare. Il mio paesaggio pensabile e possibile. E allora questo ci porta ad un'altra dimensione del paesaggio, l'ultima che vorrei rapidamente commentare, che è la narrazione, nel senso che se il paesaggio è al punto di connessione fra mondo interno e mondo esterno, diventa qualcosa per noi nel momento in cui lo narriamo. Nel momento in cui lo narriamo a noi stessi, ma soprattutto nel momento in cui lo narriamo ad un altro. E un evento recentissimo, cioè un evento della scorsa settimana, in particolare del 16 di marzo del 2011, ci aiuta in questo senso. Amos Oz, uno dei più grandi scrittori viventi, e certamente insieme a David Grossman e ad Avraham Yehoshua, uno dei più grandi scrittori israeliani. Questi tre scrittori condividono una posizione, diciamo così, orientata al dialogo, fortemente orientata al dialogo, anche in momenti tragici della loro stessa vita personale, tra ebrei e palestinesi in quell'area del mondo. Non è retorico ricordare che nel momento in cui in particolare David Grossman ha avuto questo nell'ultima guerra con il Libano, quindi 2 anni fa, morto il proprio figlio Uri in guerra, nella celebrazione del Kaddish, che è la preghiera funebre, ha avuto la straordinaria capacità di ribadire l'importanza centrale del dialogo, quindi in un momento particolarmente impegnativo per la sua vita personale. Snow, snow from Jerusalem. I walked a lonely mile in the moonlight. Though a million stars were shining, my heart was lost on a distant planet that whirls around the April moon, whirling in an arc of sadness. I'm lost without you. I'm lost without you. Siamo arrivati all'ultima porta per conoscere questa città così inafferrabile per certi versi, ma anche così ricca di spunti per capire meglio noi stessi. Ed è la porta della narrazione, dove Ugo Morelli mi porta per mano su un terreno che potrebbe sembrare difficile da percorrere, quello del conflitto tra ebrei e palestinesi. Eppure, rifacendosi a un evento accaduto di recente allo scrittore israeliano Amos Oz, mi ci porta con un tale rispetto che non ci possono essere pericoli di sorta. Oz qui fa un gesto, che trovo un gesto che va commentato e che ci parla del paesaggio inventato dalla narrazione. Il paesaggio è un'istanza inventata. E quale tipo di narrazione noi mettiamo in atto quando lo inventiamo è un atto di grande responsabilità. Ebbene, cosa ha fatto Oz? Oz, in occasione della pubblicazione in lingua araba del suo capolavoro Storia d'amore di Tenebra, che è pubblicato in italiano da Feltrinelli, un libro fondamentale non solo di Oz, ma per capire la situazione della tradizione ebraica situata nel contesto medio orientale, ha scritto sul risvolto di copertina di una copia del libro una dedica a Marwan Barghouti. Marwan Barghouti è uno dei capi della rivolta palestinese, del movimento di liberazione palestinese, attualmente in prigione a Tel Aviv, condannato dal tribunale di Tel Aviv perché accusato di aver ispirato alcune stragi terroristiche che si sono consumate in quella terra contro gli ebrei israeliani. Ebbene, Oz ha scritto una dedica a Barghouti, inviandogli una copia del libro e suscitando naturalmente la rabbia e la reazione negativa di molti ebrei israeliani. L'ha fatto con grande coraggio, cercando di aggiungere alla narrazione del paesaggio un ulteriore tassello che va nella direzione in cui, almeno a mio modo di vedere, le cose dovrebbero andare. Vale la pena leggere la dedica, è molto breve e parla da sola. Scrive Oz a Barghouti nel risvolto di copertina della copia del libro che gli ha inviato in omaggio, o in dono, come sarebbe meglio dire. Questa storia è la nostra storia. Spero che tu la legga e ci comprenda meglio, così come noi ci sforziamo di comprendere voi. Nella speranza che ci possiamo incontrare presto, in pace e libertà. Il viaggio è finito. Pace e libertà sono certamente due parole che lasciano a questa fine un buon sapore. Ma dopo questo giro nella città metafora del paesaggio, dove si è parlato di un altrove che è anche qui e degli altri che siamo anche noi, sento il bisogno di allargare, se possibile, ancora un po' il discorso. E per farlo mi servo sempre di una frase presa dall'ultimo libro del mio prezioso compagno di viaggio di oggi, sperando che davvero si attui al più presto questa sintesi tra dentro e fuori. Entriamo oggi nello spazio problematico della rielaborazione del senso di noi stessi come specie umana sulla Terra. Lo facciamo scoprendo le difficoltà di riconoscere il valore del limite e i nostri stessi limiti. Dobbiamo imparare a convivere con gli altri e reimparare a vivere con la natura come parte del tutto. Ora Ugo Morelli è in libreria con Mente e paesaggio, una teoria della vivibilità, edito da Bollati Boringhieri. Shvuya